giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Tempo, le piogge record in montagna hanno causato l'esondazione di torrenti e piene preoccupanti di tagliamento e esonzo, allagamenti e strade interrotte in Friuli e nel Pordenonese. Presidi dei confini comprensibili, ma il dovere cristiano dell'accoglienza non deve venire meno. Appello dei vescovi di Gorizia, Trieste e Capodistria, e a Trieste la Caritas apre un nuovo dormitorio per i migranti senza sistemazione. A Udine in aumento il disagio giovanile, che si trasforma alcune volte in episodi di violenza. Da oggi pattugliamento misto delle forze di polizia nel centro città. Dal 2018 al 2022 in Friuli Venezia Giulia chiusi 104 sportelli bancari, persi 915 posti di lavoro. La campagna della UIL per combattere la desertificazione bancaria ha fatto tappa in Carnia. A Villa Santina confronto con i sindaci di un territorio particolarmente colpito dal fenomeno. Società benefit in aumento in regione, sono di diverse tipologie e operano in molti campi, ma tutte hanno tra gli scopi principali anche quello di garantire benefici al territorio di riferimento. L'Udinese volta pagina. Dopo l'esonero di Sottil, oggi sarà ufficializzato l'arrivo di Cioffi. Basket, il triestino Pozzecco, nuovo allenatore dei francesi di Eurolega del Villeurbanne, continuerà comunque a guidare la nazionale maschile italiana. Dal 6 al 14 novembre 10 artisti vivranno in Ateneo, ne assorbiranno gli stimoli e realizzeranno le loro opere, che entreranno a far parte del patrimonio artistico dell'Università di Trieste. Il progetto si chiama Shine Bright Diamond e oggi si sono presentati gli artisti. Buongiorno dalla Razzani, Andrea Covri in studio per questa edizione del giornale radio regionale. L'ondata di maltempo ha portato piogge molto intense in regione, soprattutto in montagna. Da ieri sono caduti 348 mm di pioggia sulle Prealpi Giulie, 213 sulle Alpi Giulie, 206 sulle Prealpi Carniche. In alcune località delle Prealpi Carniche e Giulie e della pianura pordenonese piogge così consistenti si verificano in media una volta ogni 30 anni. Ancora attivo il servizio di piena sul tagliamento, che ha raggiunto il picco alla Tisana con valori di 4,70 m alle 9. Sono sopra il livello di attenzione i fiumi Livenza e il torrente Cormor, fiume Esonzo sopra il livello di attenzione alle 9 e poi stabile o in calo con il passare delle ore. Frane o smottamenti a Lusevera, Musi e a Fanna, esondazioni a Mortegliano, a Nimis, a Zavattina e a Pieris sul fiume Esonzo. A Grado e al villaggio del pescatore di Duino si sono attivati i controlli da parte dei volontari per l'alta marea e il montaggio delle barriere. Attualmente il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 19 gradi, a Udine 18,5, a Gorizia 18, a Pordenone 14,5, a Tolmezzo 12 gradi e 5 decimi, Tarvisio 11 e 5 decimi, Forni di Sopra 9 gradi e 5 decimi, Piancavallo 9 gradi, Sappada 8,5, su Monte Zoncolano e Monte Lussari 5 gradi e mezzo, a Lignano 20 gradi, a Grado 19,5. E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Per oggi avremo ancora cielo da nuvoloso a coperto con più variabilità sulla costa. Saranno probabili piogge sparse, in genere deboli e intermittenti a ovest, più abbondanti e continue sulle Prealpi e a est, anche temporalesche. Sulla costa soffierà libeccio moderato. Domani cielo da nuvoloso a coperto con nuvolosità più consistente in montagna e più sole sulla costa e sulle zone occidentali. Sulla fascia orientale saranno possibili deboli piogge e forse qualche rovescio temporalesco. Sulla costa soffierà libeccio moderato. In mattinate, poi nuovamente dalla sera, possibile acqua alta sulle zone più basse della costa. Dalla tarda sera, peggioramento. E ora andiamo sul territorio, nelle zone più colpite dal maltempo. Partiamo dal Medio e Alto Friuli e in particolare dal Tarcentino. C'è stata preoccupazione ieri sera a Tarcento nel vedere la passeggiata lungo il torre allagata, il fiume in piena, il sensore sul ponte raggiungere quasi la stessa quota dell'alluvione del 98. Abbiamo avuto un momento di grande apprensione, poi per fortuna ha smesso di piovere in montagna e lentamente l'acqua è defluita, le parole del sindaco Mauro Steccati, mentre osserva il torrente ancora grosso, lungo le sponde diversi metri cubi di materiale vegetale, tronchi e ramaglie portati giù dalla corrente. Le prime case sono proprio ridotte del corso d'acqua. Nelle ultime ore in alcune porzioni del territorio, come le Prealpi Giulie, da dove arriva l'acqua del torre, sono caduti centinaia di millimetri di pioggia. Qui, come in altre zone della regione, la possibilità di accadimento di un evento simile è di una ogni 30 anni. Numeri importanti ma non eccezionali, indicano i geologi, valori ancora distanti da quanto registrato appunto nel 98 nelle valli del torre e nel 2003 in Val Canale. Si spala ancora il fango per liberare la strada d'accesso senza uscita della frazione di Zomeais di Tarcento. È venuto giù di tutto nella notte, ci dice un residente, con la pala in mano. In frazione Coia di Levante, su per la montagna, il terreno ha franato a 5 metri da una casa. Chi ci abita, dopo le 9 di sera, ha visto lo smottamento, è andato a dormire dai genitori, giù a valle. Non ci sono fondi comunali per mettere a posto questa porzione di territorio. Si spera nell'aiuto della protezione civile, dice il sindaco. Nella notte, nelle prime ore della giornata odierna, operativi 45 volontari della protezione civile con 19 mezzi. Da inizio allerta ne sono stati attivati 239 con 90 mezzi. A Bordano, ieri pomeriggio, è allagata la mensa e la palestra della scuola e strade ripulite da terra, ghiaia e rami riversatisi sulla carreggiata. Strade chiuse e poi riaperte ieri sera in diverse località della regione, tra Saghis, dove è esondato il canale Novelletta, ma anche tra Povoletto e Nimis. Nell'alta Val dell'Isonzo, infine, una frana minaccia la strada che va da Caporetto al valico di Stupizza. L'arteria è al momento chiusa al traffico. Tarcento, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Disagi anche nella Bassa Friulana, sentiamo in diretta Antonio Di Bartolomeo. La piena del fiume Tagliamento è passata molto meglio di come si temeva solo ieri sera, alla fine il livello alla Tisana non ha raggiunto nemmeno i 5 metri, stamattina fondamentale la cessazione della pioggia, ieri sera è il termine del vento di Scirocco, senza il quale il deflusso verso il mare è più scorrevole. Ha superato il primo argine l'Isonzo, a Pieris, allagati i campi a centinaia di metri di distanza dal letto, evento piuttosto comune quando arrivano piene di questa entità. Peraltro accentuata la piena dal torre affluente proprio dell'Isonzo. L'acqua si è fermata comunque lontana dal secondo argine, quello che protegge Pieris. Particolarmente carico il torrente Cormor, tra gli altri abbiamo visitato Mortegliano, dove ci sono dei detriti da rimuovere da un guado, anche per evitare l'effetto tappo per possibili nuove piene nei prossimi giorni, dato che le previsioni prevedono appunto nuove piogge. Sempre a Mortegliano una famiglia, due fratelli sono rimasti sfollati nella notte per l'acqua che continua a cadere nella loro casa per via del tetto danneggiato. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco sono potuti rientrare proprio un paio di ore fa, questo anche a causa del ritardo delle assicurazioni per quanto riguarda l'invio di periti. Questa è la situazione dunque nella Bassa Friulana e nel Basso Isontino, l'acqua sta pian piano defluendo, un'emergenza che va dunque lentamente ad esaurirsi. La linea a voi. E sono rientrate le maggiori criticità legate al maltempo in Friuli occidentale, in particolare a Sacile, dove non si segnalano altri interventi in corso nella mattinata, e a Fontana Fredda, dove la protezione civile ha già messo in sicurezza la centralina elettrica del palazzetto dello sport. Restano da sistemare alcuni danni alle asfaltature in via Percoto, permangono criticità idrauliche a Castelnuovo del Friuli e Travesio, dove è stato chiuso il ponte sul Cosa in località Graves tra i due comuni per i problemi strutturali dovuti alla piena di ieri. Danni a Clauzetto per il cedimento di una carreggiata, al guado di Murlis una persona è rimasta bloccata con la sua auto nel letto del Meduna, dopo la chiamata ai soccorsi ha poi segnalato di essere riuscita ad allontanarsi autonomamente. E ora gli altri temi in primo piano, partiamo dai controlli ai confini italo-sloveni. I vescovi di Trieste, Gorizia e Capodistria richiamano al dovere dell'accoglienza. In una nota congiunta il vescovo di Trieste Enrico Trevisi, l'arcivescovo di Gorizia Carlo Roberto Maria Ridaelli e Yuri Biziak, vescovo di Capodistria, sottolineano come il transito di tanti fratelli che giungono nelle nostre terre percorrendo la rotta balcanica debba continuare a essere non motivo di preoccupazione, ma stimolo a testimoniare ogni giorno l'accoglienza a cui i credenti sono chiamati. Pur comprendendo le ragioni alla base delle decisioni degli stati di presidiare i confini, non possiamo non ricordare, scrivono i presuli, che le nostre popolazioni sono state capaci di trasformare le divisioni e le differenze culturali, linguistiche e storiche in occasione di incontro e di accrescimento reciproco. E un dormitorio prima dell'arrivo del freddo inverno viene aperto a Trieste, Diocesi e Caritas aprono le porte della parrocchia in via Sant'Anastasio e chiedono alle associazioni di volontari per fare squadra. Un riparo prima dell'arrivo del freddo. La diocesi triestina, insieme con la Caritas, allestisce un dormitorio notturno per migranti nella parrocchia della chiesa di via Sant'Anastasio, operativo dalla prima settimana di novembre. 24 i posti disponibili ad alta rotazione per accogliere chi ha bisogno di un pasto caldo e di un letto per la notte. Monsignore Enrico Trevisi, vescovo di Trieste, apre le porte a chi è costretto a dormire all'aperto. Spesso donne e bambini, tra i migranti, oltre 300 quelli che non hanno una sistemazione anche solo per una notte. Non è un accogliere semplicemente quelli che già sono stati segnalati, ma è per persone vulnerabili, le persone che rischiano di soffrire di più. Certo, però il freddo è freddo per tutti e questo è, appunto, dicevo, è una piccola risposta parziale e insufficiente, è quello che siamo in grado di fare adesso. Il vescovo, insieme a Don Alessandro Modeo, direttore della Caritas Triestina, hanno chiesto ad associazioni Onlus di fare squadra per avere dei volontari e renderla un'opera della città. Ci rivolgiamo alle istituzioni facendo appello a quello spirito di umanità che caratterizza il nostro popolo e la nostra tradizione culturale e religiosa, scrive Monsignor Trevisi. In questa situazione non possiamo stare fermi, in silenzio, inermi, con la paura che possa succedere qualcosa di grave, conclude il vescovo. Il servizio di accoglienza sarà soltanto notturno dalle 18 alle 8 del mattino successivo. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Per la cronaca, a Trieste traffico in tilt questa mattina sulla superstrada ex grande viabilità a causa di un incidente verificatosi poco dopo le 7.30 in direzione del centro città in corrispondenza della rampa Molo Settimo. La fuoriuscita autonoma di una vettura, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone, ha provocato una perdita di liquidi e richiesto un intervento di bonifica con chiusura della GVT, uscita obbligatoria a Valmaura e chiusura dell'ingresso di Valmaura in direzione del Molo Settimo. L'interruzione della circolazione sul tratto interessato si è protratta per circa 2 ore. Due uomini sono stati sottoposti al fermo di indiziato di delitto per il reato di ricettazione, denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e portati in carcere a Gorizia a disposizione dell'autorità giudiziaria dopo essere stati intercettati dalla polizia stradale a bordo di un furgone e di una berlina con targa francese sulla A34 vicino al confine italo-sloveno. All'alta della pattuglia il conducente del furgone ha accelerato avvertendo con i fari abbaglianti il conducente della vettura che lo precedeva. Dopo un tentativo di fuga ha frenato bruscamente. È sceso dal mezzo e ha cercato di raggiungere la vettura, ma i poliziotti sono riusciti a bloccare entrambi i conducenti, cittadini romeni di 23 e 30 anni. A bordo dei mezzi, telefoni cellulari di dubbia provenienza, strumenti atti allo scasso, 29 biciclette, anche elettriche, e attrezzature sportive per un valore complessivo di circa 40.000 euro. La maggior parte del materiale è risultato frutto di un furto perpetrato il giorno precedente a Saint-Bonnet, in Francia. Custodia cautelare in carcere eseguita dalla polizia stradale di Udine nei confronti di un quarantenne di origini albanesi. Durante i controlli autostradali lungo la A4, la stradale di Palmanova aveva intimato l'alta a una vettura con 2 persone a bordo in transito verso il confine di Stato. Il conducente aveva inizialmente ignorato l'invito e poi aveva accostato in una piazzola di sosta. L'uomo alla guida, residente nel milanese, è risultato destinatario di un'ordinanza del Tribunale di Milano che disponeva l'applicazione della misura cautelare in carcere nell'ambito dell'operazione Madera 2, in carico al Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Milano, che aveva eseguito un'attività di indagine per un traffico di stupefacenti. L'uomo è stato condotto nella casa circondariale di Via Spalato a disposizione dei magistrati milanesi. Economia e lavoro, chiusura filiali, no grazie. Questo è il titolo della campagna itinerante contro la desertificazione bancaria promossa dalla UIL, che stamattina ha fatto tappa a Villa Santina, in Carnia, uno dei territori più interessati dal fenomeno. Sentiamo Patrizia Sushmel, segretaria generale della UIL Friuli Venezia Giulia. Dal 2018 al 2022 le posso dire che nel Friuli Venezia Giulia sono stati chiusi 104 sportelli bancari. E sono stati persi qualcosa come 915 posti di lavoro. Sicuramente la zona più colpita è la zona di Udine, perché qui c'è la maggiore desertificazione legata anche alla zona montana. A Udine, per esempio, sono stati chiusi 64 sportelli in questo 2018-2022 e abbiamo perso 351 dipendenti. A Trieste abbiamo perso 12 sportelli. Qual è l'impatto di questa desertificazione sul territorio? La desertificazione bancaria crea sicuramente dei grossi problemi all'utenza. Pensiamo che soprattutto nei piccoli comuni non c'è la possibilità per tutti di utilizzare internet per problemi di connessione. nelle zone montane non solo, ci sono una larga fascia di anziani che non è in grado di utilizzare gli strumenti tecnologici home banking. Dall'altra parte sicuramente viene anche meno la diffusione capillare delle filiali e viene meno il ruolo sociale ed economico delle banche, perché il ruolo delle banche dovrebbe essere quello di supportare le famiglie nei momenti di necessità con la concessione di mutui, di prestiti e anche le industrie e anche le imprese. Quali possono essere però le soluzioni economicamente sostenibili? Sicuramente le banche arrivano da un periodo anche di grandi extra profitti, no? E sicuramente il risparmio dei costi non può passare attraverso la desertificazione bancaria o venir meno all'assistenza alla clientela. Abbiamo voluto incontrare i sindaci della Carnia che hanno ben presente questo fenomeno per vedere effettivamente se si possono trovare anche delle soluzioni. Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Le società benefit sono sempre più diffuse in Italia e in Friuli Venezia Giulia. Diversi i campi di attività comune e il senso di solidarietà con il territorio in cui sono insediate. A Trieste Udine è in corso un confronto di approfondimento. Imprese che nello statuto, oltre alla propria attività, definiscono una o più finalità di beneficio ambientale e sociale da perseguire in modo sostenibile e trasparente. Sono le società benefit, un modello di organizzazione introdotto nel nostro paese nel 2016 e che la Regione Friuli Venezia Giulia promuove attraverso un tavolo di lavoro permanente e il forum nazionale Fabbricare Società, un appuntamento che punta a diventare un punto di riferimento a livello italiano per questo settore. Alessia Rosolen, assessore regionale al lavoro. Le società sostenibili in questa regione sono aumentate del 50% rispetto all'anno scorso, dandoci un complesso di visioni di quelli che sono gli effetti della sostenibilità all'interno del mondo del lavoro. L'evento è arrivato alla seconda edizione, articolata in due giornate di confronto a Trieste e Udine, con interventi di relatori di livello internazionale e dei rappresentanti di alcune società benefit del nostro paese. Oggi circa 3.000, un numero quadruplicato negli ultimi 3 anni, diverse delle quali sono attive anche in regione, come la società di ricerca di mercato SVG. Gianluca Vincenzo, Chief Financial Officer SVG. Essere società benefit chiaramente deve essere un punto di partenza, che permetta poi di sviluppare e conseguire nel tempo degli obiettivi di beneficio comune, quindi non direttamente legati al profitto, ma indirettamente sono assolutamente legati al profitto e al miglioramento delle performance aziendali. Basti pensare al maggior coinvolgimento della forza lavoro, quindi si traduce anche in migliori risultati. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. La cultura ha 10 artisti contemporanei simbolicamente assegnati a ciascuno dei 10 dipartimenti dell'Università di Trieste sono stati invitati a reinterpretare le varie discipline universitarie attraverso la loro arte. Il progetto si chiama Shine Bright Like a Diamond, partirà il 6 novembre e gli artisti si sono presentati questa mattina durante l'incontro che si è tenuto nell'Aula Magna della sede dell'Università di Trieste in Piazzale Europa. Ce ne parla la curatrice Eva Comuzzi. Ad ognuno di questi artisti è stato assegnato un dipartimento e anche con gli studenti, quindi ci sarà proprio un dialogo, una crescita per loro e anche per i docenti e soprattutto un discorso relazionale, perché poi si porranno in relazione anche con gli studenti. Gli artisti invitati sono 10. Lavorano tutti con tecniche diverse, c'è anche la pittura, dico c'è anche la pittura perché abbiamo un'unica artista che realizzerà un dipinto, ci sarà il disegno però trattato non solo, quindi non avremo solo il disegno classico a matita ma con diversi collage e elementi, poi ci saranno installazioni che potranno essere anche abitati, percorsi da chi visita la mostra, ci sarà video, ci sarà una performance o forse più di una, quindi questo rimarrà comunque un elemento sorpresa, e interventi con il suono, quindi diciamo che toccano tutte quelle che sono le tematiche, i mezzi utilizzati in ambito contemporaneo. Quante di queste opere realizzate resteranno poi a far parte del patrimonio artistico dell'università? La cosa bella è che proprio tutte le opere entreranno a far parte del patrimonio artistico e quindi si andranno ad unire alle opere che erano entrate nella collezione nel 1953. Quindi la cosa sicuramente affascinante e interessante è che ci sarà per la prima volta un dialogo con quelle che sono le nuove tecniche. Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Venerdì comincerà la 23ª edizione del Trieste Science Plus Fiction Festival. La rassegna del cinema di fantascienza presenterà tra il Rossetti e il Miela 75 film che immaginano come sarà la nostra vita nel futuro. Un mondo dove si potrà fare un backup ogni 48 ore della propria memoria, oppure dove l'intelligenza artificiale ha preso il controllo della società, tanto che le emozioni umane sono una minaccia, dove nel 2041 la Terra è al collasso ecologico. Sono alcuni dei futuri possibili immaginati dai 75 film che saranno presentati al Trieste Science Plus Fiction Festival. Nel programma anche ospiti illustri, come l'attrice Claudia Gerini, che con il regista Federico Zampaglione sarà al Rossetti di Trieste per presentare il film The Well. Molto atteso anche l'astronauta Paolo Nespoli, come ci racconta il direttore della programmazione del festival, Massimiliano Maltoni. Paolo Nespoli ha volato nello spazio per ben 3 volte, è stato sullo Space Shuttle, è stato per ben 313 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale, presenterà il film The Longest Goodbye domenica pomeriggio al Teatro Miela, mentre lunedì mattina incontrerà il pubblico del festival all'Hotel Hilton per raccontare la sua vita da astronauta con i piedi per terra. Torneranno sullo schermo anche evergreen come Jurassic Park, che compie 30 anni. L'idea è mostrare come la fantascienza del passato immaginava il futuro, che ora è il nostro presente. Abbiamo anche diversi film, tra cui Visitors from the Arcana Galaxy, un film jugoslavo del 1981, vinse il premio della giuria a San Giusto, sarà con noi Ksenia Proasca, l'attrice protagonista, ma avremo anche un altro grandissimo protagonista del cinema fantahorror, che è il compositore Pino Donaggio, verrà a presentare a Venezia un dicembre rosso Shocking, che 50 anni fa fu la sua prima colonna sonora. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Dalla fantascienza alla realtà, torniamo alla cronaca. A Udine sono stati rafforzati i controlli di polizia in centro e in periferia per aumentare la sicurezza, tra i fenomeni da contrastare anche quello delle baby gang. Furti, danneggiamenti, risse, episodi di bullismo hanno messo in allarme a Udine i cittadini. Seppur in città non esistano fenomeni di baby gang, da tempo questure e forze dell'ordine hanno attenzionato questo fenomeno, presidiando i luoghi di aggregazione dei giovani e aumentando la presenza sul territorio. Esiste, dice il portavoce della questura di Udine, una differenza tra sicurezza effettiva e sicurezza percepita. Il nostro compito, oltre a quello di prevenire questi episodi, è quello di reprimerli per garantire i cittadini. Alessandro De Ruosi, capo di gabinetto e portavoce della questura di Udine. Abbiamo attivato dei servizi di vigilanza e di controllo del territorio in borghese accanto al controllo del territorio in divisa ordinario, e già solo questo fatto ha permesso di intervenire su diverse azioni o diverse situazioni illecite che si erano verificate, ma che come dire, erano sfuggite agli operatori che erano intenti nelle loro attività di controllo ordinario, e nelle prossime ore verranno avviati appositi servizi nel centro città, proprio nel cuore della città, in cui tutte le forze di polizia e la polizia locale agiranno insieme, coordinate e unite nell'attività di pattugliamento delle strade. Un fenomeno, quello del disagio giovanile, che è in aumento, come sono in aumento anche a Udine fenomeni di autolesionismo. Dario Marin, psicologo, neuropsichiatria infantile, ospedale di Udine. È aumentato tanto il disagio, soprattutto nei disturbi alimentari, abbiamo notato, e anche in quello che è tutto l'espressione per i ragazzi anche del disagio, quindi con la psicopatologia. Quello che noi osserviamo è che in un'età molto critica, che è l'adolescenza, dove l'identità si forma, stanno mancando tante sicurezze che sono quelle che sono le basi educative, dalla famiglia alla scuola, e questi ragazzi si trovano un po' dispersi ed esprimono questa difficoltà di identità con questi segnali molto forti che noi chiamiamo sintomi. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport, al calcio. Dopo l'esonero di Andrea Sottil, l'Udinese attende il nuovo allenatore. Oggi verrà ufficializzato Gabriele Cioffi, che si è liberato dal contratto con il Verona e sottoscriverà un accordo con la società friulana. Per l'allenatore toscano si tratta di un ritorno all'Udinese, che ha già allenato nella stagione 2021-2022. Cioffi sarà il 14° allenatore dell'Udinese negli ultimi 10 campionati. Il suo esordio domenica pomeriggio a Monza. L'Udinese è attualmente terz'ultima in classifica con 6 punti, frutto di altrettanti pareggi. In Serie C è invece terza in classifica con 20 punti la Triestina, che ieri ha vinto per 3-1 sul campo del Legnago. Meglio degli alabardati solo il Mantova, nuovo capoclassifica con 23 punti dopo la vittoria per 1-0 sulla Pro Vercelli, e il Padova, che ieri ha pareggiato 0-0 contro il Renate ed è secondo con 22. Stiamo crescendo come squadra, ci alleniamo duro e vediamo settimana dopo settimana i miglioramenti, ha commentato Daishaun Redan, l'attaccante della Triestina, autore ieri di una doppietta. Abbiamo dimostrato di essere caparbi venerdì scorso, continuando a battagliare contro il Vicenza e ad attaccare anche quando siamo rimasti in 10. L'abbiamo confermato a Legnago e dobbiamo continuare così. Sabato pomeriggio la Triestina tornerà al Rocco, dove il tema della tenuta del campo resta attuale. Gli alabardati giocheranno alle 18.30 contro il Fiorenzuola, terz'ultimo in classifica, che ieri ha vinto contro il Vicenza per 3-1 dopo 4 sconfitte consecutive. Chiudiamo con il basket. Ora è ufficiale, il triestino Gianmarco Pozzecco è il nuovo allenatore del Villeurbanne, squadra francese che gioca in Eurolega. A dare l'annuncio il club transalpino con una nota sul proprio sito. Pozzecco resterà comunque anche alla guida della nazionale italiana. Farà il suo esordio sulla panchina del Villeurbanne venerdì prossimo nel match di Eurolega in casa contro la Virtus Bologna. Era l'ultima notizia di questa edizione del notiziario regionale, curato e redatto e presentato da Lara Zani e Andrea Covre, dato in onda grazie alla collaborazione tecnica di Walter Vidonis e Vassia Krismancic. In redazione ha collaborato Cristina Polselli. Grazie per la vostra cortese attenzione e buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.